Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti, il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Come sempre, lo sapete, noi cerchiamo di raccontare grandi storie, grandi uomini ovviamente, grandi donne anche, e quando ci soffermiamo sul mondo del calcio abbiamo i nostri gusti, parliamo soprattutto di quei giocatori che piacciono a tutti, quelli che non si attirano l'odio dei tifosi, dei giocatori avversari, quelli che viaggiano un po' più in alto degli altri, Gigi Riva, Paolo Maldini, Zanetti, giocatori che piacciono a prescindere dalla maglia che portano. E in Inghilterra ci sono, non so, gli eroi del 66 come Bobby Charlton, come Gordon Banks, però ci sono anche eroi più recenti, e di Cantona abbiamo parlato, per esempio, eroi dell'Inghilterra, lui francese, ma anche il protagonista della nostra storia di oggi. Prima di dirvi di chi si tratta, dobbiamo tornare indietro al 19 settembre del 99. Si sta giocando una partita di campionato Newcastle Sheffield Wednesday. I padroni di casa hanno conquistato un solo punto nelle prime 5 partite, cioè il peggior inizio stagione di sempre, e quello che ha pagato il conto, come sempre, è stato l'allenatore, il mitico Rod Gullit, che lascia alla panchina un mostro sacro del calcio inglese, che è stato chiamato per risollevare le sorti di una squadra sull'orlo del baratro. Quest'uomo si chiama Bobby Robson, Sir Bobby Robson, è lui l'uomo che stabilirà un legame particolare con il nostro protagonista, gli regalerà una seconda vita sportiva, e il protagonista di oggi, risorto e risollevato da Bobby Robson, è lui, Alan Shearer, il bomber straordinario, un uomo vero che mantiene le promesse. Vedremo perché. Mia mamma e mio padre hanno sempre fatto avere a me e mia sorella tutto quello di cui avevamo bisogno. Mio padre lavorava in uno stabilimento dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, ogni singolo giorno. E penso che questo mi abbia insegnato il valore del lavoro duro, della puntualità e del rispetto. Questo è quello che ho sempre cercato di fare. Se la gente mi prende come un modello, ottimo. Ma per me comportarmi in questa maniera è sempre stata la cosa più normale da fare. La nostra storia comincia il 13 agosto del 1970 a Gosforth. Siamo in una terra di cantieri navali, siamo al confine con la Scozia, insomma il clima per esempio non è il massimo, piove spesso, fa freddo, questo non scoraggia però i lavoratori a trasferirsi da quelle parti. Perché? Perché dopo la Grande Depressione del 30 e dopo la Seconda Guerra Mondiale a Newcastle vengono trasferiti tanti cantieri navali che attirano tante persone alla ricerca di lavoro. Fanno così anche i nonni e i genitori di Alan Shearer. Il padre lavora in uno degli stabilimenti della zona, conduce una vita molto regolare, fatta di turni, di puntualità, di rispetto per i superiori, di lavoro duro, e Alan viene cresciuto con questi valori. Da bambino non è uno studente modello, la scuola non gli piace, però sa che deve mettercela tutta e lo fa per dedicarsi a tempo pieno alla sua vera passione, che come per tanti bambini del mondo per decenni e decenni e decenni ancora è il calcio. Entra nel Wolsten Boys Club, che è una specie di accademia del calcio, una fabbrica di calciatori che un giorno potrebbero diventare professionisti. È un club che lavora proprio con questo intento, far crescere futuri campioni. Loro non hanno neanche una vera e propria squadra, hanno solo questa missione. I ragazzi, una volta pronti, vengono mandati nelle giovanili delle squadre della prima divisione inglese e lì qualche volta si affermano. Alan Shearer segue proprio proprio questo percorso. Al Wolsen muove i primi passi giocando in ruoli diversi, e fino a quando non verrà notato dal Southampton. Lui ha solo 13 anni ma ha le idee molto chiare in testa, vuole diventare un calciatore professionista, fa le valigie presto e lascia la famiglia per inseguire il suo sogno. Quando ho ricevuto l'offerta per andare a giocare al Southampton, avevo solo 13 anni. Insieme a me c'era anche un altro ragazzo cresciuto nell'accademia, che oggi purtroppo non è più con noi. Ho chiesto un parere ai miei genitori su questa possibilità e siamo andati tutti insieme a Southampton per un periodo di prova. Siamo partiti io, mio papà e altri 6 o 7 della nostra zona durante le vacanze estive. L'ambiente mi è piaciuto molto, l'impatto è stato incredibile. Io ero uno dei migliori della mia scuola di calcio, ma quando sono arrivato lì ho visto che c'erano ragazzini del mio livello che arrivavano da ogni angolo del paese. Quei giorni sono stati un'esperienza bellissima. Alla fine sono stato scelto per entrare nelle giovanili del Southampton. Il momento di svolta è stato in occasione di una partita di campionato di categoria, quando ho segnato una tripletta. In quel momento la società ha deciso di offrirmi il mio primo contratto della carriera. Avevo 15 anni e in quel momento mi sono trasferito definitivamente a Southampton. Quella è stata forse la decisione più importante della mia carriera. One of the best decisions I ever made in my career. E a Southampton Alan Shearer comincia il suo percorso nel calcio dei grandi. Siamo a metà degli anni Ottanta, con il calcio inglese devastato dal fenomeno degli hooligans. Stanno ancora piangendo i morti di Highbury e del Heysel, con le squadre che verranno escluse per anni dalle coppe europee. Shearer è un giovane ragazzo della primavera, diremo in Italia. In Inghilterra è uno dell'Academy del Southampton, squadra che per tradizione ha sempre avuto un settore giovanile molto forte. Sono passati da lì giocatori come Alan Ball, Peter Shilton, Matt Letizia, in tempi più recenti Gareth Bale. E Shearer a Southampton trova un ambiente simile a quello di casa sua: rispetto e duro lavoro. Pensate, per capirci, a Southampton i giovani della squadra sono costretti a pulire le scarpe dei giocatori più anziani, devono occuparsi di tenere in ordine i materiali e gli spogliatoi, pena l'esclusione dalla rosa. Capite come si formano le grandi personalità. E questo è il suo mondo, e lì lui si muove benissimo. Questo duro lavoro gli permette di crescere come calciatore e come uomo. E debutta in prima squadra quando non ha ancora 18 anni, siamo nell'88, si sta per giocare Southampton Arsenal. Mi era già capitato un paio di volte di essere convocato come riserva, ma non ero mai entrato in campo. Ma il giorno della partita contro l'Arsenal, intorno alle 11 del mattino, l'allenatore mi prese da parte e mi disse: oggi giochi tu. Vai. Per me è stato un vero sogno. Non avrei mai pensato di partire da titolare in una partita contro l'Arsenal. E l'impatto di Shearer con il calcio che conta è devastante. 4-2 per il Southampton, e Alan che segna una tripletta al debutto. Nick Hornby avrebbe detto: è nata una star, e avrebbe avuto ragione. Però un ragazzo di 17 anni avrebbe il destino segnato se segna una tripletta alla prima di campionato. Però il Southampton ha un altro modo di vedere le cose. Sì, una volta finita la partita prendono da parte Shearer e lo riportano subito coi piedi per terra. Gli dicono: dal giorno dopo tutto tornerà come prima. Dovrai ancora pulire per un po' di tempo le scarpe dei più grandi, dovrai allenarti tutti i giorni col massimo impegno in attesa di una nuova opportunità. È una specie di test, bisogna capire se oltre al calciatore dietro c'è anche l'uomo, se il ragazzo ha la testa sulle spalle. Dovrebbero farlo questo test anche con gli eroi di una stagione, con qualche vincitore di talent, non vi faccio i nomi. Comunque Alan capisce come deve comportarsi, insomma, questo gioco funziona. Non ho mai pensato di essere il migliore, questo mi ha permesso di continuare ad andare avanti e lavorare ogni giorno. Non ho pensato di essere il migliore nemmeno dopo la tripletta segnata al mio debutto a 17 anni contro l'Arsenal. Il giorno dopo, era una domenica mattina, l'allenatore mi ha chiamato per pulire le scarpe degli altri giocatori, i bagni e lo spogliatoio. La forza di Alan Shearer è questa: non sedersi mai sugli allori, abbassare la testa, continuare a lavorare duro ogni giorno. E a Southampton hanno capito e hanno saputo insegnargli a vivere, e questo gli tornerà utile nella sua carriera. Una tripletta la prima partita giocata non garantisce una vita facile per sempre. Ci sono tanti ragazzi nella storia del calcio, ma anche per dire nella musica, che hanno esordito col botto e poi si sono persi per mancanza di carattere o di voglia di lavorare. Beh, Shearer non è un tipo così. Lui continua a allenarsi, continua a pulire i bagni e le scarpe, aspettando che l'allenatore gli conceda una nuova occasione. Il Southampton sceglie di utilizzare Shearer con il contagocce, non vuole bruciarlo, ma lui non si abbatte, anzi, le sue poche partite giocate in questi primi anni sono già sufficienti per attirare su di lui l'attenzione da parte dei grandi del calcio inglese. E c'è una squadra su tutte, il Manchester United, l'allenatore è Sir Alex Ferguson, e il Manchester vorrebbe a tutti i costi Shearer. Lui però fa una scelta coraggiosa: rifiuta i Red Devils per un'altra squadra che è in grande ascesa, anche se non ha neanche un decimo del blasone del Manchester. Si va a Blackburn Rovers. Jack Walker è un magnate delle acciaierie, ha acquistato il Blackburn nel 91, lo ha portato in un anno nella neonata Premier League. A 70 anni questo Walker ha un patrimonio personale di circa 600 milioni di sterline. È un tifoso del Blackburn che vuole portare in alto la squadra. Erano ancora anni nei quali le famiglie ricche potevano permettersi di gestire un club in Premier League, come i Moratti e i Berlusconi in Italia. Insomma, lui vuole i migliori calciatori sul mercato, viene visto come un matto da tutti, un mecenate del calcio che vuole tentare il colpo grosso con una squadra che non vince un titolo da quasi 80 anni. E Walker però il portafoglio lo apre, si assicura per 3 milioni e 600 mila sterline proprio Alan Shearer. È l'inizio di una storia incredibile. Ho pensato: è davvero stupido che paghino una cifra così alta per un giocatore del mio livello. Ma l'ho sempre reputato un loro problema, non mio. A me piaceva sentir parlare la gente della pressione che avrei dovuto sentire per il prezzo pagato dal Blackburn per acquistarmi. Ma allo stesso tempo ero lusingato di sapere che qualcuno sarebbe stato disposto a spendere così tanti soldi per avermi in squadra. Ma Walker non si limita a sborsare sterline solo per acquistare Shearer. La squadra viene affidata a un duro, a un grande, a Kenny Dalglish, allenatore noto per saper far giocare bene le sue squadre, ma anche per i suoi trionfi da giocatore e da allenatore con il Liverpool degli anni Ottanta. Il primo anno di Premier League fa capire subito che le ambizioni di Walker sono chiare: lottare per il titolo. Shearer comincia a segnare a raffica, fa 16 gol da agosto a dicembre, il Blackburn è tra le prime della classe. Poi arriva uno stop contro il Leeds United, Alan Shearer subisce il primo grande infortunio della sua carriera. Ero devastato perché avevo avuto un inizio di stagione splendido con la maglia del Blackburn. Avevo segnato una cosa come 21 gol da metà agosto fino al mio infortunio a dicembre durante il Boxing Day. Sono stato fuori per i successivi 8 mesi per la rottura del legamento del ginocchio. All'inizio non sembrava essere una cosa grave, tanto che dopo qualche giorno tornai in campo, ma tempo 20 minuti e il ginocchio è ceduto di schianto. Ricordo ancora quel giorno, era il 14 febbraio, era a San Valentino e l'ho passato in hotel insieme al fisioterapista del club. Il giorno dopo mi sono operato al ginocchio e così sono dovuto restare lontano dal campo per ben 7 mesi. È stata dura perché non riuscivo ad accettare di dovermi fermare dopo un inizio di stagione così. Ma grazie ad un grande staff medico tutto è andato per il verso giusto. But I had a great medical team. The surgeon was great. Ma al ritorno in campo Alan Shearer c'è. Non ha perso lo smalto, il killer instinct sotto porta, torna, segna a raffica. E qui qualche numero dobbiamo snocciolarlo, anche se non ci piace farlo nelle nostre puntate, però insomma 31 reti in 40 partite nel campionato 93-94 vanno raccontate. E insomma il suo ginocchio ha retto, anzi dopo il brutto infortunio Shearer sta meglio di prima, dovrebbe essere lui la punta di diamante dell'Inghilterra ai mondiali americani, ma la nazionale fallisce la qualificazione. Però Shearer si scrolla di dosso la delusione del mancato mondiale, perché quella che sta per iniziare, la stagione 94-95, sarà una delle più importanti della sua carriera. England party for the summer tournament. Remember, of course, this isn't the end of your live football on Sky Sports. It's Redknapp! This is unbelievable stuff. But the champions, they know it. I don't think the players do. They do now, Martin. Colin Henry and Sherwood and Pearce and Beck, they're all. They might as well blow up. It's finished here as well. Let me say it once again. Blackburn Rovers are the champions. E quella che abbiamo appena sentito è la cronaca degli ultimi istanti di Liverpool-Blackburn, la partita di chiusura del campionato 94-95. In vetta alla classifica ci sono Blackburn Rovers e il ben più titolato Manchester United. Sta giocando a Londra il Manchester contro il West Ham, che è già salvo, due punti di differenza tra la prima e la seconda, tutto è ancora aperto. Shearer che segna l'1-0, lo United è fermo sull'1-1, sembra tutto scritto. All'improvviso il Liverpool pareggia e segna il gol della vittoria con Redknapp a tempo scaduto. Per il Manchester c'è ancora un minuto di speranza, va all'attacco della porta del West Ham. Le immagini di repertorio fanno vedere Kenny Dalglish che dall'altra parte dell'Inghilterra è lì attonito in attesa di notizie da Londra. Eh sì, perché un gol dello United spazzerebbe via il sogno di una città, e invece il West Ham gioca, diciamo, senza lasciarsi condizionare. In Inghilterra queste cose succedono, e il portiere para anche le mosche, si dirà. La partita finisce 1-1. Insomma, il Blackburn è campione d'Inghilterra 1995. Il falco e il gabbiano. Come sempre noi raccontiamo storie di calcio che non parlano solo di calcio. Stiamo raccontando uno dei più grandi bomber del calcio inglese, un ragazzo di Newcastle che è partito alla ricerca del successo, è passato per Southampton e per Blackburn. Però stiamo parlando anche di un personaggio molto particolare, che poi sarà famoso non solo per i suoi gol ma anche per dei grandi dinieghi. Ma andiamo con ordine: è arrivato a Blackburn per giocare in questa squadra costruita dal proprietario Jack Walker, un uomo che non bada a spese per riportare in città una vittoria che manca da 80 anni. È il classico, come dire, miliardario buono che vuole far del bene alla sua città, la sua squadra. E Alan Shearer, il nostro protagonista, ha rifiutato le offerte dei grandi club per andare a giocare proprio lì. È una scelta che gli frutterà stagioni piene di gol e anche un titolo, quello del campionato 95, vinto alla fine di un duello contro il Manchester United. Peraltro, il mio parere personale è che uno scudetto a Blackburn vale molto di più di uno scudetto a Manchester o a Liverpool, così come uno scudetto del Cagliari o della Fiorentina o del Verona o della Sampdoria vale molto di più di uno scudetto di una super big. Alex Ferguson parla così del Blackburn. Quando il Blackburn provò a metterci in difficoltà, sapevamo che non avrebbe resistito molto, perché non c'erano i precedenti storici per un successo così grande da parte loro. La loro vittoria del campionato è stata una bella cosa, per il calcio e per Jack Walker, il presidente che aveva portato nel club molti grandi giocatori, su tutti Alan Shearer. Fu fu un periodo fantastico per il Blackburn, ma l'esperienza insegna a temere solo quegli avversari che aspirano al titolo per tradizione. Dal fatto che l'Arsenal e lo United fossero stati testa a testa per così tanto tempo, si poteva dedurre che i Gunners avessero dalla loro una storia e un'identità forte. Lo stesso non lo si poteva dire del Blackburn. Eh sì, è vero, sono parole insomma, che non fa piacere sentire da un certo punto di vista, appunto perché la parte romantica di noi vorrebbe tanti casi come il Blackburn o come il Leicester di pochi anni fa. È più bello vedere vincere Davide piuttosto che Golia, però di fatto il fenomeno Blackburn si spegne rapidamente, la società casca in un errore che i proprietari di club del genere spesso tendono a commettere. Possiamo catalogarlo come il nobile errore dell'eccessiva riconoscenza. Giocatori che hanno portato a termine una grande impresa e che quindi vengono confermati. Cioè, l'affetto è più del cinismo e lo stesso Alan Shearer ce lo racconta in un'intervista realizzata per True Gordy Podcast. Il grande errore commesso è stato quello di non ingaggiare nuovi giocatori dopo aver vinto la Premier League. È stato un comportamento onesto da parte della società confermare tutti per cercare di ripetere l'impresa, ma è stato sbagliato non provare nemmeno ad ingaggiare altri grandi giocatori per far crescere ancora di più la squadra e migliorarla ulteriormente in vista della nuova stagione. Nell'estate del 95, infatti, vengono accostati al Blackburn nomi di giocatori importanti, due su tutti, due francesi, Dugarry e Zidane. Entrambi sono del Bordeaux. Dugarry andrà al Milan, mentre il secondo, leggenda vuole che sia stato proposto a Walker, il presidente del Blackburn, che lo respinse al mittente con le seguenti parole: perché mai dovremmo prendere questo Zidane se in quel ruolo abbiamo già Tim Sherwood? L'affetto ha superato la competenza in questo caso. Insomma, il treno passa, Zidane andrà alla Juve e poi al Real Madrid, non vestirà mai la maglia bianco-azzurra del Blackburn, Shearer rimane la punta di diamante anche nel 96 e poi se ne dovrà andare altrove. L'attaccante inglese più forte della sua epoca, segna valanghe di gol, su di lui c'è sempre l'interesse di tante squadre. Per esempio c'è Bobby Robson che nel frattempo sta allenando il Barcellona, vorrebbe portarlo in Spagna. Poi arrivano offerte anche dall'Italia, dalla Juventus, ma Alan non è il tipo che lascia la sua terra, non è il tipo che costringe la famiglia a ambientarsi in un paese nuovo. Siamo ancora in un calcio di uomini veri o comunque che antepongono valori diversi rispetto ai soldi e basta. Insomma, torna a farsi sotto il Manchester e racconta questa vicenda proprio Martin Edwards, che è uno storico presidente del Manchester United. Shearer è stato a casa di Ferguson. I due si sono parlati e sembra che Shearer fosse d'accordo a venire da noi. Il problema credo fosse Jack Walker, il presidente del Blackburn, che non è mai stato un grande fan dello United. Eravamo rivali a quel tempo anche per questioni territoriali, visto che siamo a solo un'ora di macchina di distanza. Ha fatto di tutto pur di non far venire Alan Shearer da noi. Poi, tra Walker e Shearer c'era un rapporto quasi paterno, e non credo che Alan volesse dare un dispiacere del genere al suo presidente. In realtà, Walker, secondo me, non lo avrebbe venduto a nessuno, se avesse potuto. Shearer ha già le valigie pronte a casa, deve solo capire da che parte andare. Lui accetterebbe la proposta di Ferguson, e il Manchester è il Manchester, avrebbe la certezza quasi di vincere tanto. E però la volontà di Walker ha il suo peso. Prima di dire sì a Ferguson, lui parla anche con Kevin Keegan. Keegan è il suo idolo d'infanzia, in quel momento allena il Newcastle, è la squadra della sua infanzia. I due si vedono subito dopo il colloquio di Shearer con Alex Ferguson. Keegan fa la sua proposta a Shearer, si prende qualche ora lui per riflettere, va a un concerto di Bryan Adams e lì matura la sua scelta. Giocherà nel Newcastle. Il Newcastle non è una squadra come le altre per Alan Shearer, è la squadra della sua città, quella per cui facevano il tifo il padre e il nonno. Nell'estate del 1996 Shearer quella maglia la vuole vestire, decide di andare lì, una scelta da uomo, una scelta controcorrente. Ha rifiutato il Manchester United e il Barcellona e lui torna lì con un solo obiettivo: scrivere la storia nel club della sua città. Se non vieni da una città particolare è difficile da capire. Se vieni da Liverpool è normale sognare di giocare un giorno con la maglia del Liverpool. Io venivo da Newcastle e giocare per il Newcastle era il mio sogno. Volevo superare il record di gol segnati da Jackie Milburn e starci per tanti anni. È stata una delle migliori scelte della mia carriera. E Alan Shearer viene accolto dal suo popolo come l'eroe, il messia che è tornato a casa per portare la squadra in alto, e le premesse ci sono tutte. Davanti c'è Shearer, ma c'è un altro cavallo di razza, si chiama Les Ferdinand. I due segnano tantissimo e i risultati non arrivano. Viene cacciato Keegan, arriva Ruud Gullit e le cose si complicano, perché tra Gullit e Shearer non c'è feeling. Non si capiscono, Alan finirà addirittura in panchina per un attaccante, un giocatore insomma del suo rango, e arrivare in panchina vuol dire che inizia a passare un giorno più triste dell'altro. Senti di essere il responsabile del fallimento della tua squadra. Shearer ha 29 anni, insomma per qualche mese sembra che la sua carriera sia destinata a chiudersi troppo presto. Comincia anche a farsi male un po' troppo spesso. Insomma, torniamo al punto di partenza della nostra puntata di oggi, 19 settembre 1999. Sulla panchina del Newcastle per la prima volta c'è seduto Bobby Robson, e Robson consegna a Shearer una maglia da titolare e una fascia da capitano. Sta per iniziare la seconda vita del nostro protagonista, la vita che lo vedrà diventare il bomber straordinario. Il falco e il gabbiano. 19 settembre 1999, Newcastle, Sheffield Wednesday. Il tabellone indica 8-0. Cinque volte Alan Shearer ha esultato tenendo alto nel cielo il suo pugno destro, il suo gesto caratteristico. E, insomma, esordio fantastico per Bobby Robson, che è il nuovo allenatore del Newcastle. Lo stesso Bobby Robson che qualche anno prima avrebbe voluto con tutte le sue forze portare Shearer a Barcellona. E la vita è strana, ci si separa e poi ci si rincontra. I due assieme stanno trasformando il Newcastle da squadra di metà classifica a potenziale pretendente per la vittoria del titolo, e gli avversari si chiamano Arsenal, Manchester United e Chelsea. Lui ha salvato la mia carriera in maglia bianconera, non c'è dubbio. Bobby mi ha ridato la capacità e la voglia di sorridere, di divertirmi giocando a calcio, rendendo facile da superare qualsiasi ostacolo incontrassimo sul nostro cammino. Sir Bobby era un genio della gestione del gruppo. Era incredibile come sapeva far convivere in armonia i giovani del vivaio con i senatori di 35 anni, ormai dei professionisti affermati. Era brillante, riusciva a tirarmi fuori tutto il meglio, mi faceva sentire bene. Con lui mi sentivo speciale. Non sono parole casuali quelle di Alan Shearer. Con Bobby Robson in panchina lui sta vivendo veramente una seconda giovinezza. Intanto torna titolare, si carica la squadra sulle spalle, si carica sulle spalle tutta la città di Newcastle, e le spalle di Shearer sono larghe abbastanza da poter sostenere questo peso. Ci vuole personalità per sopportare le pressioni di questo tipo, e lui invece col passare degli anni sembra migliorare. Peraltro lui è aiutato da uno stile di vita magari un po' noioso, ma che gli permette di recuperare velocemente dagli infortuni, a migliorarsi anno dopo anno. E il suo è proprio lo stile di vita da calciatore alla Javier Zanetti, per intenderci. Nel frattempo lui segna in tutti i modi, ma esulta sempre nello stesso modo, il pugno destro alzato. È una costante delle partite del Newcastle e anche di Alan Shearer. Comincia a scalare la classifica dei marcatori più prolifici di sempre della storia del campionato inglese. Raggiungerà quota 260. Da quando si è ritirato nel 2006 nessuno è ancora riuscito a raggiungerlo. Ce ne vorrà di tempo prima di vedere un altro bomber del livello di Alan Shearer, prima di vedere gonfiare 260 volte la porta da parte dello stesso giocatore. Al termine della stagione 2006, 36 anni suonati, un sacco di problemi fisici, Shearer lascia il calcio. In suo onore viene organizzata una partita d'addio, Celtic Glasgow contro Newcastle. Lui però è infortunato, gioca col contagocce anche a questa partita, naturalmente non può mancare alla festa che è stata organizzata solo per lui. Segna un gol su un generoso rigore, è una partita amichevole, ricordiamo. L'intento di questo rigore era semplicemente dargli la possibilità di salutare il suo pubblico alzando ancora una volta quel pugno destro in alto nel cielo. Alan Shearer, un uomo nato per segnare, un uomo straordinario nella sua normalità, un uomo senza tatuaggi, senza cambi di look appariscenti, senza il parrucchiere personale, uno che non si è mai lasciato andare a vizi e stravizi che soprattutto in alcuni giocatori inglesi hanno compromesso carriere, hanno fatto tramontare stelle luminose. Per esempio è stato soprannominato Smokey non perché avesse il vizio del fumo ovviamente, ma solo perché andava ghiotto di patatine al bacon affumicato, insomma, per dire quale fosse il massimo della sua trasgressione. E però Shearer è stato, oltre che il più grande marcatore dei campionati inglesi fino ad oggi, un uomo vero, è uno che ha vinto il campionato col Blackburn, squadra che non vinceva da 80 anni, è uno che ha rappresentato per la gente di Newcastle un premio, è stato il bomber, la bandiera, il capitano, e soprattutto è uno che ha rifiutato Barcellona e Manchester pur di rimanere tra la sua gente. Insomma, un campione vero, un uomo vero, una di quelle persone con le quali uno dice mi piacerebbe essere suo amico. E potete trovare la nostra puntata su Alan Shearer, come tutte le altre, nel nostro podcast. Per altri suggerimenti sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni.